Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'uomo del giorno, anche a giudicare dai messaggi arrivati nella notte, in mattinata, è certamente Emiliano Mondonico. È il nostro Abidal, se pensiamo a quella indimenticabile suggestione del difensore del Barcellona, cui il capitano Xavi cedette, è storia di pochi mesi fa, l'onore di levare la Coppa dei Campioni pochi mesi dopo l'intervento per un tumore al fegato che Abidal nel frattempo aveva superato. A Mondonico nessuno ha ceduto niente, Tessera si sarebbe tenuto volentieri la sua panchina del Novara, anche giustamente per averlo portato dalla Serie C alla A, ma un giorno lo hanno chiamato, così va il mondo, no? Mi pare in questo caso con la maiuscola, il mondo come contrazione di Mondonico e suo soprannome ormai da tantissimi anni. E Mondonico ieri si è presa con molta sobrietà, devo dire, la soddisfazione di vincere una partita a San Siro alla guida del Novara. Dunque, intanto Mondonico non vinceva una partita in trasferta in Serie A, mi segnala Franco Piantanida, da settembre 2004, quando alla guida della Fiorentina vinse 2-1 a Cagliari. Se parliamo del Novara, l'ultima vittoria in Serie A del Novara fuori casa risaliva a quasi 59 anni fa, 19 febbraio 56, 2-0 a Napoli, e quindi questa non è più storia, è persino preistoria. E invece è successo ieri a San Siro, ed è successo, sì, tra circostanze rocambolesche, ma senza che il Novara abbia davvero rubato niente. Sentiamo il racconto di un emozionato Emiliano Mondonico. Cioè, il calcio per me non è così difficile, il calcio è una cosa semplice. Affrontavamo una squadra più forte, abbiamo dovuto difenderci, abbiamo avuto un pizzico di fortuna e abbiamo vinto Sanremo. Capita alle volte di partecipare al Festival di Sanremo e di vincerlo. Sono stati bravi questi ragazzi, cioè veramente hanno fatto una gara di una volta. Molti distruggono il calcio di una volta. Questo oggi ha fatto una gara di una volta, tutti ben raccolti, qualche contropiede, perché non dobbiamo parlare di ripartenza, parliamo di contropiede. Su uno di questi abbiamo fatto gol, altri due o tre li abbiamo così buttati via, ma molti confondono il punto di vista tattico difensivo con il catenaccio. E allora è chiaro che è difficile parlarne ed è difficile avere ragione. Ecco perché vi ho parlato di un pizzico di fortuna e del Festival di Sanremo, perché se parliamo così sono tutti quanti d'accordo. Grande il mondo. Quello che è passato l'ho reso ancora più sottile, perché lui dialetticamente è sempre stato uno bello puntuto, uno che ha sempre amato i distinguo, e poi con quello che ha passato si sente anche dalla voce, a parte l'inflessione iniziale, sembrava quasi catalana, no? Che avesse sentito quel riferimento ad Abidal e al Barcellona, invece poi è tornato la sua bella cadenza da rivolta d'Adda, e sono arrivati questi concetti, perché in fondo la vittoria, ha ragione Mondonico, la vittoria del Novara di ieri a San Siro è un ripasso dei fondamentali. L'ho ricordato anche lui in un altro passaggio della sua chiacchierata finale, quando ha ricordato che il calcio è lo sport più bello del mondo perché è l'unico, e rimarrà lo sport più bello del mondo perché è l'unico, dove il più debole, sia meritando che non meritando, può vincere contro il più forte, anzi anche contro il nettamente più forte. Da interista, scrive Giovanni La Mantova, mi dispiace la sconfitta con Novara, ma vedere e riascoltare il mondo a fine gara felice come un bambino ci riconcilia con lo sport e con la vita. Bravo Giovanni, lei ha colto esattamente l'essenza di una sconfitta che però non bisogna dimenticare come all'Inter faccia male. Fa talmente male, e questo lo dico con molta simpatia, direi persino con affetto, che Ulisse scrive questo messaggio, in cui io ho cercato a lungo la nota ironica, ma alla fine non l'ho trovata e mi sono convinto che lui sta roba la dice davvero. Dunque scrive: anche se l'Inter ha perso, causa alcune coincidenze sfortunate, per la prima volta da novembre scorso ha giocato da grande squadra. Una squadra che non si è nascosta e ha giocato con un modulo offensivo ben messo in campo, è davvero sulla buona strada. Io però proverei con Sneijder centrale, Forlan sulla destra e Nagatomo alto a sinistra in un 4-2-3-1 all'Inter più consono, scrive Ulisse. Ripeto, io ci ho cercato. L'ironia, se c'è, è veramente molto ma molto ben dissimulata. Può darsi che questo, invece che un messaggio ironico, alla fine si riveli un buon consiglio per il povero Onieri, che oggettivamente credo non sappia più che pesci pigliare. Sentiamolo. Il rigore c'è quando l'arbitro fischia. Sapevamo che incontravamo una squadra che si sarebbe chiusa e sarebbe ripartita in contropiede, per cui ho detto, dico, cerchiamo di aggirarli, di trovare il varco giusto, perché tanto anche giocando in velocità, in rapidità, tanto loro stanno là dietro e ci aspettano, per cui dico, restiamo calmi e cerchiamo di trovare il varco giusto. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare contro una squadra che si chiudeva molto bene, perché stavano tutti lì e poi ripartivano in uno di questi contropiedi. Che Caracciolo ha fatto un gran gol, bene per lui, male per noi, perché io non so se abbiamo fatto roba di 20 tiri in porta, anche se l'abbiamo presa poco la porta, mi sembra che sia il 13° palo della stagione, e questo è un momento così. Prima ci andavano bene le cose, adesso non ci vanno bene, e dobbiamo stare vicino a questi ragazzi e continuare a fare. È vero, anche più di 20 volte ha tirato in porta ieri l'Inter, 13 volte ha tirato solo Sneijder verso la porta di difesa da Uicani. 13 volte in 90 minuti sono tanti, secondo me sono persino troppi, ma visto alcune forzature di tiro di Sneijder, però questo è sempre molto soggettivo. Io credo che abbia detto bene Ranieri, una partita come quella di ieri ti dice una volta per tutte che non è davvero il tuo momento, e infatti secondo me non è tanto, sì certo, è la sconfitta di ieri che è molto grave, ma è grave come punto conclusivo per il momento di una fase molto negativa, perché viene dopo una sconfitta a Lecce, una rimonta subita contro il Palermo in casa e 4 gol incassati, altri 4 gol a Roma. Ecco, se da lì saltiamo a uno 0-1 in casa col Novara, non è l'episodio isolato in cui agli altri va tutto bene e a te magari va tutto male, pur avendo giocato una partita buona o discreta. No, è che è una fase completamente negativa. Potremmo sentire che cosa? No, sentiamoli dopo gli altri, anche perché nel frattempo è già arrivato un aggiornamento sui guasti del generale inverno sul campionato. Beh, a parte che li sentite anche sulla mia povera gola, ma questo è un altro discorso. Mentre invece su Cesena-Catania c'è già stato un nuovo rinvio. Era uno dei recuperi programmato per le 18:30 di dopodomani, e cioè di mercoledì prossimo, ma le condizioni del tempo a Cesena hanno già suggerito di rinviare ulteriormente questa partita e di farla recuperare il giorno 7 marzo, quando si giocheranno anche i recuperi di Bologna-Juventus e di Parma-Fiorentina, sempre alle 18:30. Prima di chiudere su Mondonico, mi ricorda sempre Franco Piantanida la prima frase che pronunciò quando arrivò ad allenare il Novara, stiamo parlando di 2 settimane fa. Può darsi che io sia un difensivista, ma preferisco vincere 1-0 che 4-3. E comunque la legge dei numeri parla chiaro, siamo la difesa più battuta del campionato ed è il primo punto su cui dovrò intervenire. Bene, il Novara, che aveva subito gol in tutte le prime 21 partite e ne prese 2 anche l'esordio di Mondonico col Chievo, che era arrivato 2 giorni prima, Mondonico non ha più subito gol giocando né col Cagliari né sul campo dell'Inter, e questo qualcosa comincia magari a voler dire. Spazio agli ascoltatori, senza poi dimenticare altri argomenti, come per esempio il triste sabato dell'Udinese contro il Milan, ma non tanto per la sconfitta contro il Milan, che pure diciamo pure che è stata pesantemente immeritata, perché fino a un quarto d'ora alla fine l'Udinese avrebbe meritato ampiamente di vincere, e insomma già il pareggio gli sarebbe probabilmente andato stretto, ma quanto per le conseguenze, perché è costato di Natale per qualche tempo e Isla, miglior uomo direi dell'Udinese in stagione, insieme a Di Natale per il resto della stagione. Rocco ha chiamato da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, proprio di questo volevo parlarvi, la partita di il Milan a Udine. Sì. Insomma, io penso che... Sì, ma si faccia coraggio, Rocco, perché la sento un po' depresso. Sono recuperato in ospedale. Allora, vede che ho sentito il tono, ma io allora sono ben lieto di farle compagnia, ma si faccia coraggio, voleva essere una battuta, e non mai più posso immaginare che lei mi chiami dall'ospedale. La ringrazio. Volevo chiederle se questo ragazzo, Sharawi, è veramente un gran giocatore oppure se è ancora troppo presto per giudicarlo. Rocco, senta, è sempre un po' rischioso sbilanciarsi sui giovani, sui ragazzi, perché quando, quando ti sbagli a dire che secondo te sono già belli maturi e formati, poi dalla volta dopo cominciano a toppare. Quando dici, ma questo effettivamente alle stime del campione, disastro, e viceversa. No, mi pare che Sharawi stia mantenendo progressivamente quello che promette, e quindi questo è un segnale, potrebbe essere un segnale incoraggiante, perché non è che abbia fatto finora delle cose fuori norma, però fa delle cose di grande interesse e di grande proiezione possibile, e quindi insomma, io la inviterei ad avere fiducia in Sharawi, ma soprattutto la inviterei ad avere fiducia in se stesso e nella voglia di uscire da lì il più presto possibile. Grazie Rocco. Gianluca da Terni, buongiorno. Buonasera. Dica. Senta, volevo sollevare una riflessione, magari sì, avere un suo consiglio. In mezzo alle crisi dell'Inter, io non credo che si sia risolta, a parte l'infelice acquisto di Gasperini che sconvolgeva un po' tutti gli schemi e le caratteristiche dei giocatori, con Sneijder alla sinistra che era inguardabile, a parte questo non credo che si sia risolta con le 7 vittorie consecutive di Ranieri, perché in realtà comunque sempre, tranne la partita con il Parma, si è denotata comunque una carenza nell'organizzazione del gioco, nei fraseggi, nella capacità di stare in campo con padronanza. Credo che paradossalmente, se anche l'Inter prendesse Pep Guardiola, tanto non migliorerebbe tanto la situazione, perché credo che a monte debba esserci un'impostazione societaria diversa. Se si sposa un gioco, un tipo di soluzione, una filosofia, va applicata dai Pulcini alla prima squadra. Se si pensa di giocare con il 4-2-3-1 con una squadra come l'Inter, dovrebbero crescere i giocatori in quell'ottica, quindi avresti dei mediani, delle ali, dei punti centrali, dei finitori. Credo che l'Inter nel suo organico abbia una rosa di prima qualità, comunque sia resta sicuramente una delle prime tre squadre in Italia. Quello che non riesce nell'applicazione, a mio giudizio, è che in realtà questi continui cambiamenti, l'adattarsi, le situazioni, Ranieri che dice meglio guardare il Barcellona TV e guardare l'Inter, stai allenando l'Inter, una delle migliori squadre d'Europa, ma stai allenando tutti i gettoni con tutto il rispetto. Quindi credo che serva invece un discorso di un allenatore, di un'impostazione societaria che sia forte, in grado di dire questa è una grande squadra, sappiamo fare un gioco. Se bastassero le parole, Gianluca, sarebbe il calcio sarebbe così facile, se sapesse. Se bastassero le etichette, se bastasse lo slogan da condividere e da affondare come radici magari nei settori giovanili, c'è solo il Barcellona al mondo, anzi ce ne due, il Barcellona e l'Ajax, che giocano la stessa maniera dai poppanti fino ai nonni, no? Ai pensionati, che sono quelle due lì. Le altre non fanno così, e queste cose non si improvvisano in pochi giorni. Io penso che l'Inter sia in una fase negativa perché è a fine ciclo, molto ma molto più semplicemente da come la vede lei. Poi a fine ciclo si hanno i sussulti d'orgoglio, ci sono i periodi in cui la forma fisica tiene e quindi c'è l'esperienza, la voglia, la capacità di giocare ad alto livello, di mettere a frutto il massimo possibile, e poi ci sono i momenti invece di logoramento. L'intervento di prima non era ironico, precisa Ulisse, e quindi allora la formula di questo ascoltatore, di questo tifoso nerazzurro, rispettabilissima peraltro, è che deve giocare Forlan a destra, Nagatomo a sinistra, ma alti però, cioè proprio come se non proprio punte quasi, e Sneijder punta centrale. Io dico Sneijder come punta centrale in una squadra normale viene prima o poi preso a pedate dai compagni, secondo me, perché ripeto, ho la sensazione che ieri perlomeno Sneijder avesse deciso che c'era un solo uomo in campo che poteva pareggiare o vincere la partita, che era lui. Per carità, ne ha le qualità, però non è successo. Se non succede per 3 o 4 partite che quelli che gli giocano di fianco e hanno più o meno la stessa maglia lo vedano mettere la capoccia a terra, ingobbirsi e caricare sempre e comunque, caricare per tirare sempre e comunque, io dico che non va benissimo come rapporto di, no, di squadra, di, non dico di colleganza perché stiamo parlando di cose più lievi, ma insomma. Mauro Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Innanzitutto devo chiedere scusa a lei e ai suoi ascoltatori, perché in una nostra chiacchierata di un paio di mesi fa, lodando il ritorno del Borussia Mönchengladbach ad alti livelli, ho chiamato Simon Saint-René e non Alan, però anche René Simons non era male. No, non era male, no, non era male, no, sulla fascia. Esatto. Però devo anche dire, tornando al discorso di alcuni giorni fa, quando lei stigmatizzava il comportamento dell'allenatore del Napoli, Mazzari, che io simpaticamente chiamavo Lament One, volevo dire che la risposta più bella che l'aveva data quel signore che Diego Milito, quando quel rigore evidente all'Inter non dato nella partita di Coppa Italia, gli ha detto: adesso non parli più. Ho solo questo commento. Grazie all'ascolto per radio. Ma grazie a lei, Mauro. Però è vecchia sta storia. Io non mi ricordo nemmeno che non abbiano dato un rigore a Milito, che gli abbiano dato un rigore. È passato tempo, no? preferivo l'intervento sul Mönchengladbach, sinceramente, se posso permettermi, e ovviamente senza offesa. Non ho ancora sentito parlare fin qui di quella schifezza umana di Suarez, se posso permettermi di essere lieve e di riferirmi con molto garbo e con molta lievità all'episodio di sabato pomeriggio prima di Manchester United Liverpool. Uso questo termine così greve e per l'accaduto e per il fatto che a 24 ore di distanza ieri questa schifezza umana ha deciso invece che era ora di scusarsi con Evra, no? Solo ed esclusivamente per il peso evidentemente dell'opinione pubblica. Ora può darsi che anche Suarez, dal fondo evidentemente della società in cui vive, sia riuscito a rendersi conto di averla fatta troppo grossa stavolta, di averla fatta ancora più grossa rispetto alla partita di andata. Che però una persona, un uomo, che aveva comunque avuto il coraggio incivile di non scusarsi davanti a uno stadio intero e davanti alle telecamere di tutto il mondo con un avversario evidentemente per ragioni sue, senta poi il bisogno di farlo 24 ore dopo sotto le pressioni della cosa, secondo me rende ancora più grave il suo gesto e ancora più miserabile il suo atteggiamento complessivo. Vi dicevo dell'Udinese e di questa disavventura in cui è in corso, perché anche di Natale, sto leggendo l'agenzia, contro il PAOK di Salonicco giovedì non ci sarà, ha una mini frattura a un dito d'un piede, dovrà osservare come minimo alcuni giorni di riposo, ma ben più grave è l'infortunio toccato a Isla, che invece dovrà praticamente rinunciare al resto del campionato. Sentiamo se ci sta ancora Luigi da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo un consiglio da lei. Sì. Io sono un tifoso interista, sono veramente deluso nel profondo del mio cuore, perché dal momento che è andato via Mourinho, io che vado spesso a vedere l'Inter a San Siro, non ho mai più rivisto giocare né con Leonardo né con Benitez, né con Gasperi tantomeno, e né con Ranieri, non ha mai visto l'Inter avere un ritmo di gioco alto. Con Mourinho ce l'aveva a tratti, perché il primo tempo magari giocava normale, piano, poi il secondo tempo entrava e erano dei leoni. Ma io l'Inter, anche quest'anno che sono andato molte volte a vederlo, non ho mai visto gli uomini correre, e continuano a prendere un giocatore tipo Alvarez, che tecnicamente è ottimo, solamente che non hai la velocità, non potrà mai acquistare la velocità. Se non ce l'hai dalla nascita non c'è niente da fare. Volevo un consiglio, com'è possibile che nell'Inter... Come un consiglio, Luigi, mi fa una voglia di dirle di metterla in... cioè di guardarsi nei TV, di accelerare un po', insomma, di guardarle registrate con un lieve... giocando un pochino in maniera da accelerarla un po', di darle un po' più di ritmo. Quello che dice lei è vero, ma è vero in parte, perché per esempio ieri... In una certa fase della partita, soprattutto nel finale, non è che va bene, erano anche 11 contro 10, ma non è che gli mancasse così tanto il ritmo, è che gli mancano tante cose, tante cose a livello ottimale. Hanno un po' di tutto, ma non hanno niente che eccella oggi, né a livello collettivo né individuale. Quindi, quando è così, è abbastanza dura. Non so se ha notato, scrive Stefano Lacarpi, la rassegnazione nei volti degli attaccanti quando tirava sempre Snyder. E l'ho notata, sì, Stefano, e da lì mi è venuta la curiosità di andare a vedere quante volte aveva tirato in porta, scoperta che erano 13, ho messo insieme le 13 volte, al fatto che in 13 volte ha beccato una traversa, per la verità, sì, anche clamorosa. E ho sommato alle facce dei compagni di squadra, spesso in buone condizioni per ricevere il pallone, mettiamola così, e poi da lì il 2+2, ma ogni tanto i risultati come quelli di ieri fanno miracoli. Sentite per esempio questo signor Felice Bonfanti che scrive Forza Inter sopra la firma, no? Quindi giusto per dar l'idea, e scrive: ho seguito gli ultimi 3 minuti a bordo campo, il che vuol dire dietro le panchine. Ma più che guardare le azioni dell'Inter, seguivo Mondoni, che mi creda, quando Pazzini ha calciato in bocca al portiere del Novara e lui si è messo le mani nei capelli, ero contento anch'io. Poi, sommerso dagli abbracci, l'ho visto andare a stringere la mano per prima cosa a Ranieri, quasi dispiaciuto. Ma quando mai succede? E in effetti è vero, si è creata ieri, in questa partita, una suggestione di quelle tipiche del calcio che, ripeto, rimane di alcune categorie il più bello sport del mondo, proprio perché ogni tanto ti regala nella maniera più inattesa delle emozioni di questo genere. Dunque, qui ci sono tanti ascoltatori collegati. Perugia, Torino, Modena, Treviso. Da Perugia, Carlo, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Sempre di nuovo complimenti per i suoi interventi, sempre molto pacati. E 3 cose velocissime. La prima è i complimenti a Mondonico per la sua rivincita, diciamo, da interista, lo dico. Quindi, va bene, la un prima. Bel complimento. Sulla seconda e la terza vorrei un suo parere. La seconda è questa, volevo sapere, siccome io seguo il calcio da molto tempo, insomma, quindi mi interesso anche di categorie un po' inferiori, non ho mai visto un allenatore che fa i cambi alla fine del primo tempo. In nessun campionato, neanche amatoriale, in nessun campionato. Quindi volevo magari capire che cosa, no, è questa. La terza cosa invece è che mi ha scandalizzato veramente. C'è gente che, diciamo, mette da parte dei risparmi per fare anche l'abbonamento allo stadio, e poi quando vediamo una partita come quella di ieri sentiamo signor Ranieri che dice bisogna stare vicino a questi ragazzi. Insomma, questo mi sembra un pochino eccessivo, e diciamo che adesso io sto facendo un intervento dove mi sentono lungo. In tanti, quindi sì, un intervento lungo, Carlo. Grazie. Sulla terza parte la risposta è semplicissima. Io non credo che in situazioni difficili, situazione economica difficile e complessa come quella attuale, sia giusto fare dei sacrifici per il calcio, ma se così fosse, i sacrifici per abbonarsi li fanno i tifosi dell'Inter ma anche quelli del Novara, quindi direi che questa questione la parcheggiamo subito. Si vede raramente un allenatore fare cambi a fine primo tempo, comunque entro la fine del primo tempo, e questo è vero, ma ogni tanto questo succede. Si tratta poi, tutto sta a vedere se quel cambio è un cambio che funziona o un cambio che non funziona, un cambio che ha una logica oppure che non ce l'aveva. Questo è un altro film, però secondo me non è inedito. Cristian ha chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie mille, sarò velocissimo. Bravo. 2 cose. Sì. Allora, ho bisogno del suo parere illuminato sulla questione Chiellini-Ibrahimovic, che ha scatenato così tante polemiche, perché le dico, io sono a favore, non da Juventino. Ma non è una questione, Cristian, è una pugnetta televisiva, dai, lasciamola perdere. Infatti, non crede anche lei che sia una pugnetta televisiva, ok? Ma per l'amor di Dio, dai, su. Okay, che si spendono troppe parole per queste cose. Bravo. E poi volevo dire una cosa agli interisti, signori, 2 anni fa avete vinto Coppa dei Campioni, campionato, Coppa Italia, state tranquilli, cicli e ricicli storici, tornerete a vincere, comprate gli abbonamenti, andate a divertirvi e la squadra. Grazie mille e buona giornata. Grazie a lei. Grazie a lei, Cristian. Scrive Oliviero Tacchella, che è un professore pavese che, insomma, ogni tanto interviene, scrive: Luis Suarez un tempo era un faro di classe e di eleganza, ora è un cafoncello razzista. Ovviamente sta giocando sul nome di una persona, sul nome del giocatore del Liverpool, che purtroppo è omonimo del fuoriclasse dell'Inter e prima ancora del Barcellona. Quindi Luis Suarez e Cesare Battisti, una volta eroe irredentista, ora terrorista senza pudore. È vero, è un messaggio quanto mai dotto e quanto mai amaro, indubbiamente. Andiamo a sentire sulla crisi dell'Inter che cosa ha da dire, che cosa ha detto a Sky Roberto Mancini. Sono lontano da tanti anni, quindi non ho la minima idea di come sia la situazione. situazione. Chiaramente una squadra che vince da tanti anni poi può arrivare a un anno come quest'anno che le cose vanno tutte storte, una squadra con tanti infortuni e che non riesce a fare risultato. Questo credo sia abbastanza nella normalità dopo tante vittorie. Logico, direi che non ha detto nulla di particolarmente sconvolgente. Sentiamo se si è pronunciato un po' di più invece alla domanda su chi potrebbe vincere questo scudetto. Sicuramente sarà una lotta Juve-Milan, ma il fatto che la Juve fino ad oggi non abbia perso credo che sia da non sottovalutare. Forse tornerà a vincere, fino ad oggi sicuramente è stata la squadra migliore. Il Milan probabilmente ha una rosa tecnicamente migliore, abituale all'anno scorso, però la Juve mi sembra che stia facendo qualcosa in più, con la voglia di vincere. Poi la Juve si è trabuta negli anni, quindi credo che lo Stadio Nuovo gli dia una grande mano, credo che possa essere l'anno della Juve, anche se ancora l'Italia è ancora lunga anche lì, quindi tutto può succedere. È più per la Juve che per il Milan Roberto Mancini, ma i numeri per il momento gli danno certamente ragione. La Juve ha potenzialmente a disposizione un +4, nonostante la vittoria del Milan a Udine, ha a disposizione un +4 sulla Juventus, che sarebbe un vantaggio non solo molto significativo, ma un vantaggio che la metterebbe al riparo da un'eventuale sconfitta nel confronto diretto del prossimo sabato, 25 febbraio, a San Siro, anche se questo gioco di rinvii e di intrecci di calendario fanno sì che un recupero sia mercoledì e l'altro recupero invece sia il 7 marzo, quindi in ogni caso dovrebbe, sempre che tutto vada, gli altri risultati siano normali, dovrebbe presentarsi dietro al confronto diretto di San Siro, ancora, a meno che non vinca a Parma e potrebbe essere già davanti di un punto per la verità, perché fa il pieno a Parma e va a +1, mantengono le distanze nel turno di campionato che ci sarà nel frattempo, quindi potrebbe già giocare la Juve a San Siro da capolista +1, come è sempre stata d'altra parte negli ultimi 3 mesi, e poi portare a 4 quel vantaggio di +1 nel recupero del 7 marzo a Bologna, a patto però di vedere come va il confronto diretto di San Siro. Insomma, tanto vale lasciare che le cose succedano senza cercare di anticiparle. Scrive Bruno: se abbiamo notizie per caso in merito a Parma-Juve di mercoledì. No, non ci sono notizie, che significa che non ci dovrebbero essere ulteriori rinvii, perché tant'è vero che l'ulteriore rinvio di Cesena è già stato nel frattempo notificato. Tino ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo parlare di Mazzarri. L'anno scorso c'è stato il tormentone Mazzarri alla Juve, poi la Juve aveva deciso di prendere Conte, e lui, mentre veniva fuori questo tormentone, dichiarava alle interviste che lui ogni anno, da quando ha iniziato a fare allenatore, si sedeva a tavolino con la società di appartenenza e guardava nel futuro. In questi giorni gli hanno fatto una domanda che si parla di lui all'Inter e lui ha risposto: io ho un contratto col Napoli fino al 2013. Con questo volevo dire che la lezione di Mazzarri a questi personaggi super strapagati, viziati, chi più ne ha chi ne mette, gli è servita. Grazie, ascolto per radio. Abbia pazienza, c'era un problema nel microfono. Sì, gli è servita. Mazzarri è uno che le lezioni le dà e le riceve. Mi scusi, ero comunque un pochino distratto, sa perché? Perché avevo sotto gli occhi una notizia dell'agenzia. Mazzarri, non so come dire, ma mi eccita relativamente. Avevo davanti al naso una notizia dell'agenzia appena arrivata da San Paolo del Brasile. Perché il Corinthians ha iscritto anche il nome di Adriano nella lista dei giocatori per la Coppa Libertadores. Sentite la notizia stessa. Il tecnico Tite ha precisato che l'imperatore adesso è vicino al peso ideale. Vicino al peso ideale, ammetterete che non è male. Quindi abbia pazienza, ripeto, caro ascoltatore, ma mi sono distratto un tantino su questo. L'allenatore ha detto: l'imperatore adesso è vicino al peso ideale e per questo lo iscriviamo alla Coppa Libertadores, che sarebbe la Coppa Campioni sudamericana, non è un trofeo locale. Quindi, spiega, ha funzionato l'idea di rinchiudere il giocatore per una settimana nel centro tecnico del club per fargli svolgere allenamenti specifici. e affidarlo alla nutrizionista Cristina Fernanda, eccetera, eccetera, che gli ha preparato una dieta rigorosa. La donna ha controllato personalmente tutti i pasti di Adriano, al quale Tite aveva dato un ultimatum: o scendeva di peso o sarebbe stato escluso dalla prima squadra. Ci informa inoltre sempre l'allenatore Tite che Adriano era arrivato a 106 e che adesso evidentemente qualcosina è calato, per cui è, ripeto, vicino al peso ideale. Il taglio per fuori dello Zambia, scrive Giovanni, altri sollecitano questo, e se io vi confessassi che mi sono addormentato al 20esimo, ma proprio crollato, sì, complice anche un po' l'influenza, proprio crollato, ho passato un periodo, allora facciamo, sì, prima ho passato un periodo in cui il calcio africano mi incuriosiva molto, mi sono appassionato, sono stato, parlo di 20 e passa anni fa, sono stato in Africa, in Senegal, ho fatto un reportage, allora insomma, ho fatto delle cose, no, per seguire più da vicino il calcio africano, sempre convinto che da un anno all'altro, da un mondiale all'altro, il calcio africano sarebbe decollato e avrebbe soppiantato. Oggi il calcio africano, sinceramente, ma come dire, leggermente stuccato, e quindi lo seguo con un po' meno attenzione di prima. Mi ero messo in testa di vedere questa finale soprattutto perché la suggestione di questo Zambia, che si giocava la finale nello stadio davanti a dove si inabissò l'aereo con la nazionale zambiana del 93, insomma una delle più grandi tragedie della storia dello sport, tutte le suggestioni, strafelice che alla fine abbia vinto lo Zambia, ma ho anche l'impressione che quel sonno in mezzo non sia stato, insomma, non mi abbia fatto perdere da un punto di vista tecnico l'evento del secolo. Sentiamo invece, come evento non del secolo ma del 13 febbraio, che cosa si è inventato oggi, che cosa si è scovato oggi Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 febbraio 1977, sedicesima giornata di campionato. La Juventus di Trapattoni si impone al Comunale sulla Lazio di Vinicio per 2-0 con reti di Tardelli e Buoninsegna sul rigore. Nell'occasione debutta in maglia bianconera un terzino 19enne destinato a fare strada. È Antonio Cabrini, che gioca così la prima delle sue 297 gare di campionato con la Juventus. Nella prima stagione Cabrini metterà insieme 7 presenze, l'anno dopo arriverà a 15. Presto si accorgerà di lui il commissario tecnico Enzo Berzot, che lo farà debuttare in azzurro ai Mondiali di Argentina, dove sarà una delle rivelazioni. Ogni tanto arriva anche qualche battuta greve, però sinceramente questa è molto carina, quindi pazienza se è un po' greve. Ho appena letto di questo allenatore del Corinthians, Tite, che dice che Adriano finalmente un pochino dimagrito è arrivato vicino al peso ideale, e lui scrive: intendeva il peso ideale per la macellazione. Questo è il messaggio effettivamente un po' greve di questo ascoltatore, che tra l'altro non si è firmato, questo me ne sono accorto dopo, se no non l'avrei letto. Efrem ha chiamato da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, una gentilezza. Allora io vorrei soltanto dire che a mio parere questa Juventus sta tornando ad avere una mentalità vincente, è una mentalità di chi non molla mai sul campo, come aveva ai tempi quando sicuramente la taratura dei giocatori era più importante di quella di adesso, e vorrei sapere cosa ne pensa. E io la taratura più importante le lascio immaginare cosa penso, però vabbè. Sicuramente penso che non giocatori. No, parlavo dell'aggettivo importante e della taratura, ma comunque ecco. No, vabbè, dai, scherzavo su. Poi... Per ciò che riguarda invece gli amici dell'Inter, vorrei solo fare una battuta ironica, insomma, di non preoccuparsi più di tanto, che mi sembra che siano ritornati come 5 anni fa all'incirca, dove purtroppo anche, i ricordi anche per un loro po' di più sono durati tanto. Ecco, anche 5-6 anni fa, giusto, ragione. Che facciano tesoro di queste vittorie che hanno avuto quest'anno, perché non vorrei che debbano aspettare ancora. Non vorrei che anche lì, anche sulla consecuzio, oltre che sulla scelta, avrei qualche riserva, ma d'altra parte quando voi tifosi vi mettete a giocare con gli sfottò incrociati, di buono in genere ne esce sempre abbastanza poco. Immagino comunque che il messaggio sia arrivato. Sa qual è il dramma? Che adesso arriverà un interista a rispondere, e quindi gli interventi come il suo non è mai un danno solo, è sempre un danno che ne nasconde anche un altro. Quindi per evitare questo dubbio, questo rischio, no, prendiamo quelli già collegati che magari non se la filano, la sua intemerata. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo un suo parere schietto, diciamo, su l'allenatore dell'Inter, Ranieri, perché io vedo che quando giocano questi ragazzi sono come impauriti, non lo so, non c'è uno schema, non c'è sono impauriti o non c'è uno schema? Sono impauriti. E sono impauriti, non attaccano, non. Ieri la partita è stata proprio una cosa incredibile. Ranieri che li difende, dice, ma secondo me si difende lui, che non è capace, secondo me, di mettere insieme questa squadra. Vabbè. Franco ha chiamato la Mantova, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Buongiorno. Niente, il mio intervento era sull'Inter, ma è già stato ampiamente, esaurito. Una cosa volevo così menzionarle, perché effettivamente per un paese come l'Italia, che è la sesta o la settima potenza economica mondiale, interrompere per carenze strutturali di stadi vecchissimi 6, 7, 8 partite del campionato di calcio è una cosa veramente, è la cartina al tornasole che ormai da lì non ce ne sono più, per il calcio e per altre cose. Io vivo in Austria 4-5 mesi all'anno, dove di neve ce n'è molto di più, e le posso garantire che hanno sospeso 2 partite. Tutto qua. Sì, sì, ma che ci siano, insomma, quando io sento addirittura, ne ho letti anche pochi istanti fa sulle agenzie, ultimatum al Premier Monti, in vista di questa candidatura olimpica, io sinceramente, dato che sono candidature che arrivano da uomini di sport in particolare, arrivano anche da altri settori, perché dato che non è che, come dire, non è che ci siano delle aziende, delle ditte che da Italia 90 in avanti ci hanno rimesso molto, no? Con eventi speciali, allora ovviamente arrivano anche da lì, ma lì le pressioni sono più sottili, sono meno, invece no, le pressioni, quelle belle firmate, controfirmate, arrivano in genere arrivano in queste ore dal mondo dello sport, e sinceramente mi chiedo che analisi si possa fare del nostro paese, delle prospettive del nostro paese per orare in questo momento e con tanto calore una causa come persa, a parer mio, come quella delle Olimpiadi. Alberto, provincia di Bergamo, buongiorno. Alberto? Pronto? Dica. Pronto? Alberto, dica. Salve. Io ho perso l'ultimo collegamento, ecco. Volevo solamente dire la mia per quanto riguarda il discorso del problema dell'Inter. Non so se posso... In 20 secondi sì. Sì, ecco, volevo solamente dire, secondo me è un errore fatto dalla dirigenza interista, di cui io sono tifoso, appassionato, è stato la volontà di non rinnovarsi dopo la vittoria della Champions. Avevamo l'occasione per poter rinnovare il parco giocatori, ringiovanire la squadra, fare delle scelte anche diverse, avevamo vinto tutto e potevamo così. Lo so, è facile dirlo dopo, caro Alberto. In quel momento qualcuno tra i più illuminati ebbe questa tentazione, ma ce l'hanno sempre tutti in quella tentazione, quella intuizione lì, compreso il Milan del 2007, poi non si fa mai. Grazie a Franco Piantanida in redazione, Filippo Aureggi.